mostra i denti il pesce cane e si vede che li ha. Mecchi messer ha un coltello, ma vedere non lo fa. Sulla spiaggia di Long Island giace un tale a mezzodì. Stamattina lo sappiamo, Mecchi Messer era lì. Han trovato genitale strangolata sul bidet. Che sia stato Mecchi Messer, testimoni non ce n'è. Schmulmeier, l'industriale, un ignoto, un disparo, Mecchi spende il capitale, ma provarlo non si può. Sei bambini son bruciati nell'incendio di Brooklyn. Mecchi Messer, lui ne sa qualcosa, avrà. La la la la la la la la la la, ma la colpa chi l'avrà?